Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Lo avete sentito nel giornale radio, Simone Spezia ci ha già anticipato, il tema di cui parliamo questa mattina. C'è una questione che sta vivacizzando non poco il dibattito fra gli esperti di codice della strada e gli incalliti delle multe. Dall'inizio di gennaio i contestatori delle sanzioni dovranno fare più attenzione. Perché? Perché con il nuovo anno è entrato in vigore il cosiddetto contributo unificato previsto dalla manovra finanziaria di quest'anno, una nuova norma che costringe chiunque voglia contestare una multa o qualsiasi altra sanzione amministrativa davanti al giudice di pace a pagare un contributo. Oggi a questo argomento il Sole 24 Ore nelle pagine di Affari Privati dedica un approfondimento di ben due pagine, perché sembra una faccenda semplice ma in realtà si tratta di una questione piuttosto articolata. Di fatto, da quando il cosiddetto tributo unificato è stato introdotto, c'è stato un vero e proprio crollo, addirittura qualcuno lo definisce verticale, dei ricorsi ai giudici di pace, perché naturalmente non è più conveniente farlo, ma per qualcuno è comunque un tributo incostituzionale anche di fronte agli evidenti obiettivi raggiunti, appunto smaltire gli arretrati negli uffici dei giudici di pace, come dicevamo. Noi oggi ritorniamo sul tema che vi appassiona sempre tanto, cioè sulle modalità per opporsi alle contravvenzioni. Vi spiegheremo in cosa consiste questo tributo, se ci sono davvero i margini per dichiararlo incostituzionale, per cui anche questa prospettiva magari rappresenta un po' un deterrente a continuare a fare ricorso e quindi pagare ovviamente questa somma. Siccome però, vi dicevo, amplieremo un po' il raggio del nostro intervento su tutte le modalità che ci sono per opporsi alle contravvenzioni, quindi oltre al giudice di pace, il prefetto, ma c'è anche la migliore in assoluto, che è quella di non prendere multe. Allora stamattina di tutto questo parleremo con i nostri due maggiori esperti in assoluto di queste tematiche. Intanto il nostro Maurizio Caprino, collega del Sole 24 Ore, che tra l'altro è uno dei curatori delle pagine di Affari Privati di questa mattina. Maurizio, ciao, bentornato. Ciao, buongiorno a tutti, grazie. E naturalmente non ci siamo fatti mancare non un giudice di pace ma un comandante dei Vigili Urbani, il comandante della Polizia Municipale di Monza, Silvio Scotti. Dottor Scotti, buongiorno e bentornato anche a lei. Bentrovati. Perché naturalmente magari il contributo rappresenta sì un deterrente ad andare avanti con i ricorsi, ma sicuramente i vigili urbani non sono stati minimamente toccati da tutto questo e le multe continuano a fioccare, comandante, no? In effetti la cosa non ci ha riguardato. Va bene, allora 800 24 00 24, come sapete c'è il numero verde a vostra disposizione per porci tutti i vostri quesiti su questo argomento. Noi naturalmente abbiamo chiamato il comandante Scotti anche per farci dare un po' un punto della situazione su tutte quelle che sono le infrazioni sanzionate anche con importi o inferiori o superiori a questo contributo unificato, perché naturalmente anche la questione economica rappresenta, come dire, uno dei temi principali quando si decide di fare un ricorso o meno, quindi conviene anche dal punto di vista economico imbarcarsi in un ricorso o no. Quindi il numero verde ve l'ho ricordato, vi ricordo anche la modalità che avete di interagire con noi con l'SMS, che è il 349-238-6666. Diamo un'occhiata alla borsa prima di partire. La borsa oggi è direi proprio piuttosto incerta, era partita bene, poi gli indici sono scivolati in territorio negativo, poi hanno riconquistato tutti di nuovo il territorio positivo. Adesso c'è un quadro contrastato che vede Parigi e Francoforte in ribasso dello 0,2%, Londra è più 0,21%, Milano assolutamente ferma sulla parità, Milano è arrivata a guadagnare mezzo punto questa mattina, poi ha riperso tutto. Adesso il FTSE MIB non si scosta dallo zero. Pirelli è il miglior titolo, sta guadagnando l'1,90%, il gruppo ha comunicato aumenti dei prezzi per i pneumatici dal 4 al 6% su tutti i veicoli, quindi su tutte le tipologie appunto di gomme prodotte, un aumento che riguarda tutti i mercati europei, avrà effetto dal 1 aprile di quest'anno e naturalmente quindi si prevede fatturato in aumento per il gruppo, maggiori introiti e quindi maggiori acquisti anche sul mercato azionario. Tenaris più 1,34, riprende a correre Mediolanum, in rialzo di un punto, STM in rialzo di un punto, più 0,6% per Mediobanca e Saipem, Terna più 0,59%, benino anche le banche, stanno guadagnando qualcosa fra lo 0,4% e lo 0,2%, Intesa, la Popolare di Milano e Monte dei Paschi, ma anche il Banco Popolare. Segno meno invece su Telecom, che perde l'1,66%, oggi Corriere Economia scrive che è congelata per il momento la fusione con gli spagnoli di Telefonica e quindi naturalmente si ferma la speculazione. Perde un punto Bulgari, Exor, azionista di riferimento di Fiat, in calo dello 0,95%, Parma malata meno 0,86%. Rapporto euro-dollaro fermo adesso a 1,36. Il tema naturalmente sempre la Grecia, condizionare l'andamento delle valute. C'è questa indiscrezione che circola da sabato, apparsa sul settimanale Der Spiegel, secondo le quali appunto queste indiscrezioni sostengono che la Germania sarebbe pronta al coordinamento di un piano europeo per il salvataggio della Grecia, ma il governo ovviamente ha subito prontamente smentito questa ipotesi. Probabilmente all'esame c'è qualcosa, vedremo che cosa succederà appunto nei prossimi giorni, se verrà più o meno confermata. Petrolio a $80 al barile, quindi qua il greggio che rialza la testa. Noi però lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, parliamo di multe, il ricorso al giudice di pace, da gennaio si paga. Dal 1 gennaio 2010 i contestatori di multe devono fare più attenzione. Con il nuovo anno è entrato infatti in vigore il cosiddetto contributo unificato, previsto nella manovra finanziaria 2010, una nuova norma che costringe chiunque voglia contestare una multa o qualsiasi altra sanzione amministrativa al giudice di pace a pagare un contributo. In particolare si tratta di 38 euro, 30 euro più 8 di marca da bollo, per multe inferiori a 1.100 euro. Se la multa supera i 1.100 euro, il contributo sale a 78 euro. Questo significa che nella grande maggioranza dei casi, solo per contestare una multa ingiusta bisognerà pagare 38 euro, cioè l'equivalente di una sanzione per divieto di sosta, una delle più comuni, o per guida senza cinture di sicurezza. Se il ricorso costerà come una multa, è facile supporre che le nuove regole avranno un forte potere deterrente. Chi riceverà una multa ingiusta da 40-50 euro molto probabilmente preferirà pagarla subito, senza neanche aprire un contenzioso. La legge, infatti, attraverso il contributo unificato, cerca di snellire il lavoro per i giudici di pace italiani, letteralmente sommersi da ricorsi e contestazioni. Resta comunque la via del ricorso al prefetto. In questo caso non ci sono spese né contributi da pagare, ma se il ricorso dovesse essere respinto, bisognerà pagare il doppio della multa più le spese del procedimento. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Maurizio Caprino, il Sole 24 Ore, comincio con te. Allora, il contributo unificato, naturalmente il valore di questo contributo, noi abbiamo parlato di questi 38 euro, ma dobbiamo subito specificare che per naturalmente multe e sanzioni di un certo importo il contributo aumenta. Qui parliamo di un contributo di base. Ci aiuti a fare un pochino la cronistoria di questa misura, come mai si è resa necessaria, e tra l'altro secondo te c'è anche la prospettiva di una dichiarazione di incostituzionalità? Ci sono dei margini concreti affinché questa ipotesi si possa concretizzare? Sì, c'è, perché già in passato un'altra misura che aveva lo stesso scopo è stata dichiarata incostituzionale, quindi voglio dire, non è facile agire su questa materia. E perché si deve agire su questa materia? Si deve agire per tagliare il contenzioso, cioè ci sono troppi ricorsi, era un problema già ampiamente avvertito già una decina d'anni fa, tant'è che la prima mossa per tagliare il contenzioso, che fu l'obbligo di prestare cauzione al momento di fare ricorso, questa prima mossa risale al 2003. Fu subito, già nel 2004, dichiarato incostituzionale quest'obbligo, e da allora la situazione è solo peggiorata. C'è stato un ulteriore boom di ricorsi dovuto a vari fattori, tra cui anche il boom correlativo dei controlli automatici, soprattutto per quanto riguarda velocità e semafori. Sì. Quindi si è riproposto il problema di come arginare questo fiume in piena del contenzioso. È un problema, tra l'altro, che uno potrebbe anche dire sì, basta fare meno multe ingiuste, però è altrettanto vero che molti ricevono una multa assolutamente sacrosanta e la impugnano lo stesso, insomma, ecco, questo tanto è... così un po' per perdere tempo, far passare qualche mese naturalmente, e poi si arriva alla situazione in cui comunque si deve pagare ugualmente. Maurizio, non è mica detto, perché intanto c'è la prescrizione che incombe, poi io ho visto proprio con i miei occhi, ne ho scritto anche su Sole 24 Ore alla fine del 2009, di un caso di una signora che aveva torto marcia, ci ha provato lo stesso e ha vinto fino in Cassazione, per cui questa giustizia sta diventando una sorta di roulette. Beh, allora, in sostanza però noi ritorniamo alla motivazione per cui abbiamo organizzato questa trasmissione, senza magari incoraggiare anche a fare tutto questo. Lo scopo di questo contributo unificato e arginare il fenomeno della contestazione selvaggia delle multe. Nel 2009 c'era un calcolo secondo il quale queste erano state circa 700.000. Maurizio, tu se non sbagli, addirittura nel tuo blog qualcuno segnalava che erano state forse addirittura superiori ad 1 milione questi ricorsi? No, i ricorsi qualcuno pensa anche che siano più di 1 milione. Comunque il dato ufficiale, quello che deriva dalle ultime statistiche sull'inaugurazione dell'anno giudiziario, parla di un pelino di meno, insomma, sulle 900.000. Però insomma sempre una cifra sufficiente, come dicevamo, a congestionare gli uffici dei giudici di pace. Volevo coinvolgere anche il comandante Scotti, perché a prescindere dal caso raccontato da Maurizio Caprino, secondo il quale appunto per un automobilista, una donna tra l'altro, quindi lascerei poi le battute, che aveva torto marcia, comunque provato a fare ricorso, un giudice le ha dato ragione. Detto questo, comandante Scotti, magari questo certo andrebbe chiesto al giudice di pace, però le chiedo anche, siccome lei so che osserva molto attentamente questo mondo, non solo per il lavoro che fa, ma anche proprio anche per, come dire, vocazione giornalistica, perché è una delle firme del Sole 24 Ore su questi argomenti, quali sono i ricorsi al giudice di pace più frequenti sulle sanzioni che voi comminate agli automobilisti? Quali vi contestano di più? Solitamente quelle che hanno le conseguenze peggiori, e non intendo dal punto di vista monetario, ma intendo dire proprio dal punto di vista delle sanzioni accessorie. Ricordiamoci che per taglio dei punti sulla patente, sospensione della patente, ritiro della stessa, quindi si tratta solitamente di situazioni che creano problemi di mobilità. Ecco, su queste situazioni noi abbiamo un numero notevole di ricorsi. Sono le multe che sono selvagge, non i ricorsi, dice un ascoltatore, comandante Scotti. Ma dunque, io credo che francamente si debba capire se come punto di riferimento abbiamo la legalità, e allora quello è il nostro punto di riferimento. Altrimenti, se si parla di sanzioni selvagge, significa che i divieti posti sono errati e non certo le sanzioni. Quindi credo che dovremmo distinguere tra le regole di comportamento che sono correttamente poste e invece le regole di comportamento che sono sbagliate e che rappresentano delle piccole trappole, per esempio i limiti di velocità eccessivamente bassi su strade dove francamente non si capisce dove stia il pericolo. E però in sostanza, se sono poi limiti che vengono infranti, essendoci, cosa deve fare un vigile urbano? Certo, noi siamo ovviamente la mano esecutiva, no? Dobbiamo intervenire necessariamente e far rispettare queste regole che non spetta a noi giudicare. Tuttavia è altrettanto vero che ci sono gli strumenti per verificare se i limiti di velocità, i tempi semaforici sono correttamente posti oppure se rappresentano una sorta di trappola. Maurizio, adesso noi dobbiamo andare già in pausa, però volevo chiedere un'ultima curiosità al collega Caprino del Sole 24 Ore. Il ricorso al giudice di pace richiede il pagamento, il versamento di questo contributo, perché non è stata scelta la stessa strada anche per il ricorso eventualmente al prefetto? Perché poi spiegheremo le due opzioni per opporsi alla giustizia, a queste sanzioni amministrative, ma perché per il prefetto non è stata decisa una... Perché dal prefetto si rivolge molta meno gente, però è chiaro che questa disparità potrebbe essere proprio ciò che mette a rischio di incostituzionalità la nuova tassa che è stata introdotta. Un altro ascoltatore chiede, lo dice apertamente, Gino, lo salutiamo, che non è la solita furbata per battere cassa sul Sole, Maurizio, nello specchietto che indica proprio come funziona questa misura anti-ingorgo. Viene spiegato abbastanza chiaramente che in realtà il motivo principale della sua introduzione è stato intanto proprio quello di cassa. Il motivo principale è quello di decongestionare, però è chiaro che contemporaneamente si fa anche un po' di cassa, però attenzione che decongestionare significa anche averne un beneficio economico, nel senso che un ufficio congestionato costa anche molto di più, insomma, ecco, va vista in maniera più ampia la cosa. E infatti, allora, eccoci ritrovati in diretta. Devo dire che, come era anche abbastanza facile intuire, stanno arrivando davvero tante telefonate e tanti messaggi da parte vostra. Stiamo parlando questa mattina, abbiamo scelto un tema con la collaborazione dei colleghi del Sole 24 Ore del lunedì, di affrontare appunto con voi il tema del versamento di questo contributo unificato qualora avete ricevuto, qualora abbiate ricevuto una sanzione, una multa che ritenete non giustificata, allora decidete di andare a fare ricorso al giudice di pace e dal 1 gennaio, appunto, secondo quanto ha previsto la finanziaria, c'è da versare questa cifra di 38 euro, naturalmente per multe che hanno un determinato valore. Se poi ci si alza, ovviamente di pari passo aumenta anche il contributo da versare. L'obiettivo era quello di decongestionare un po' le pratiche sopra i tavoli dei giudici di pace. L'obiettivo è stato raggiunto perché i ricorsi sono crollati davvero radicalmente, sempre secondo quanto indica stamattina il Sole 24 Ore, e però c'è già chi pensa appunto ad una possibile dichiarazione di incostituzionalità di questa norma. Detto questo, intanto noi stiamo cercando stamattina di capire come funziona, per quali sanzioni, una volta appunto ricevute quali sanzioni, poi si può presentare ricorso al giudice di pace. C'è anche l'altra alternativa del prefetto. In sostanza, stamattina stiamo spiegando anche tutte le modalità per contestare eventualmente una multa. Abbiamo chiamato i nostri due esperti preferiti, Maurizio Caprino, collega del Sole 24 Ore, il comandante della Polizia Municipale di Monza, Silvio Scotti. Comandante Scotti, le volevo fare una domanda. Le è mai capitato di comminare una multa a dei pastori che con il proprio gregge transitassero sulle sue strade senza autorizzazione? Beh, non mi è capitata personalmente, ma è capitata al corpo della polizia locale di Monza, perché in un'occasione è transitato un gregge, si è creata qualche problema alla circolazione, siamo intervenuti, abbiamo sanzionato. Adesso io non è che volevo far ridere gli ascoltatori, ma in realtà questo è un esempio che riporta il Sole 24 Ore. Questa è una infrazione sanzionata con 23 euro ed è praticamente un importo inferiore al contributo unificato. Questo per dire che cosa? Che se quel pastore avesse voluto contestare, comandante, la multa, in sostanza, non sarebbe stato forse conveniente per lui farlo al giudice di pace e pagare i 38 euro di contributo unificato? Beh, diciamo che in quel caso avrebbe dovuto chiedere anche al giudice di pace anche la condanna alle spese della controparte. Nel caso avesse avuto ragione, almeno per quanto riguarda la giurisprudenza dei giudici di pace monzesi, in alcuni casi vengono condannate le amministrazioni anche alla refusione delle spese. Allora, adesso comincio a leggere anche, comincio a sentire le domande degli ascoltatori pronti ad intervenire, però Maurizio, naturalmente quello che ci hai raccontato prima, Maurizio Caprino, ha sollevato molta curiosità, e cioè il caso di quella signora che, pur avendo torto marcio, è andata a fare ricorso al giudice di pace e questo gli ha dato ragione. In molti si chiedono: ma che razza di giudice è quello che assolve una persona che ha torto marcio? Beh, qui dovremmo aprire 500 milioni di parentesi, però magari ci puoi raccontare quello che aveva combinato la signora? Era semplicemente passata col rosso. Nel ricorso ha dichiarato che passava, che era passata col giallo, però io poi ho visionato le foto dell'infrazione e le foto dicevano chiaro che la signora è passata 36 secondi dopo lo scattare del rosso. Ah, però neanche due, 36. 36. Quasi un minuto. Comandante Scotti, è quello che lei chiama il giallo fresco? Sì, no, il rosso fresco. In Italia lo chiamano il rosso fresco. Il rosso fresco, esatto. Ecco, in realtà io vorrei ricordare una regola a tutti gli ascoltatori: col semaforo giallo, proiettante luce gialla, se non si è già impegnato l'incrocio, bisogna fermarsi. Si può transitare solo se si è già impegnato l'incrocio. E quindi, insomma, stiamo attenti e non fatevi tentare dal successo ottenuto da questa signora di fronte a questo giudice di pace. Facciamo attenzione perché sono situazioni molto pericolose. Allora cominciamo a sentire i nostri ascoltatori, cominciando appunto con Alberto da Milano, che saluto. Alberto, buongiorno. Buongiorno a lei. In realtà il comandante mi ha fregato l'intervento. Ah, mamma mia, perché? Voglio dire una cosa, mi sembrava una cosa talmente naturale. Io non sono contro l'idea di pagare per poter fare un ricorso. Però se poi ho ragione, lo Stato che ha commesso un errore e mi chiede dei soldini per rivedere questo errore e mi dice che ho ragione, dovrebbe anche ridarmi i soldini che io ho versato per farmi dare ragione. Quindi, come dire, concettualmente va bene che ci sia questa norma astenersi per di tempo, però se poi io ho ragione non vedo perché non debba riottenere i soldi che ho. Certo, allora sentiamo cosa ne pensano i nostri ospiti. Maurizio Caprino. Sì, è assolutamente giusto, è assolutamente giusto, e questo per lo più accadrà. Il problema è che non sarà semplicissimo, perché non è che dopo la sentenza si possa passare allo sportello giù in cancelleria e riprendersi i soldi pagati in cancelleria. Bisognerà aspettare che la controparte, quindi o il comune o la prefettura o la provincia, liquidino queste spese, insomma. Quindi non è una cosa proprio burocraticamente semplicissima. Certo. Poi comunque c'è il problema di mettere una tassa che probabilmente è ingiusta, perché chi non può permettersi, come il povero pastore, voglio dire, come chi non può permettersi il ricorso, non lo fa anche se ha ragione. Poi c'è gente che non rallenta neanche davanti a un autovelox visibilissimo, prende una multa da 500 euro perché tanto quelli li può pagare, figurarsi, insomma, questa gente faranno il solletico i 38 euro. Infatti. Come si paga questa tassa, Maurizio, peraltro? È indicato sul Sole 24 Ore, possiamo spiegare agli ascoltatori che non hanno il giornale sotto gli occhi in questo momento dove si va a pagare? Sì. Allora, la soluzione più semplice è dal tabaccaio, perché questa tassa, questi famosi 38 euro, in realtà sono 30 euro più 8 di marca da bollo. Questo significa che andando dal tabaccaio si compra sia l'uno sia l'altro, un po' come pagare il bollo auto, si ottiene un tagliandino da applicare al ricorso. Altrimenti si può scaricare dal sito dell'Agenzia delle Entrate sia il modello F23 per pagarlo in banca, oppure anche l'apposito bollettino postale per pagarlo appunto alla posta. Si può andare anche dal concessionario alla riscossione, quindi tutto sommato c'è una certa comodità nel pagarlo, almeno questo. Attenzione poi però al ricorso presentato per posta, cioè ricordatevi, siccome il ricorso da qualche anno si può anche presentare per posta, dovete accludere questa documentazione già al ricorso presentato per posta. Allora, no, tra l'altro poi ci stavo pensando in questo momento che effettivamente è molto divertente parlare dei ricorsi contro le multe con un comandante dei vigili urbani che naturalmente non prenderà neanche in considerazione l'ipotesi che un vigile possa combinare una sanzione sbagliandosi, e però ci sono delle circostanze che naturalmente anche per il comandante Scotti è abbastanza semplice da ammettere, e adesso magari su questo andiamo. Volevo anche fare il punto, magari proprio prendendo il caso dell'ascoltatrice che adesso manderò in onda, Mara dalla provincia Monza e Brianza, per cui il comandante Scotti è direttamente interessato, operiamo qua in palese conflitto di interessi, e i tempi in sostanza, perché questo tributo è in vigore dal 1 gennaio, ma bisognerà, no, devo capire appunto se è possibile, se bisogna versarlo per i ricorsi relativi alle multe che sono state prese dal 1 gennaio in avanti, oppure si può tornare indietro anche di 1 o 2 mesi, non lo so. Adesso sentiamo intanto Mara e poi chiediamo delucidazioni o al comandante Scotti o a Maurizio Caprino. Mara, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Sì. Dunque, il verbale a data 7 novembre 2009. Sì. Una multa per divieto di sosta presa in largo Esterle, che il dottor Scotti saprà bene essere un punto caldo della città. Esatto, un punto caldo della sosta, del divieto di sosta a Monza. E, tra l'altro, quando mio marito è andato presso il comando dei vigili a Monza, ci è stato risposto che non era responsabilità loro il fatto che il cartello non fosse esattamente quello giusto posto in quel luogo dove noi abbiamo preso la multa. Beh, questo immagino che abbia ragione, perché credo che sia l'amministrazione comunale che dà disposizioni su come non lo so, poi sentiamo anche il comandante Scotti, magari ho detto una banalità che non è vera. Ecco, e quindi la risposta mi è arrivata, dunque la lettera reca Monza 30 dicembre, però risposta nota Ma la risposta di che cosa, Mara? Perché lei si è opposta a questa multa? Sì, ha fatto ricorso? Ah, ecco. Sì. Ho avuto questa prima risposta in cui il comando dei vigili me l'ha respinto, ovviamente, no? Però io ho intenzione di andare fino in fondo, perché la trovo profondamente ingiusta. Perché, ma perché cosa ha contestato sostanzialmente? Perché che era... io ho parcheggiato in un punto della piazza dove c'è un divieto di sosta per lavaggio strade. Ah, ecco. No? Io sono scesa, ho controllato bene il cartello, mi sono appurata che non fosse un divieto di sosta, come ce n'era uno a solo 5 metri, e indicava il divieto di sosta il giorno martedì. Benissimo. Mi pare. Mara, due cose: lei è andata al giudice di pace, come fa? Perché io sono in attesa, ho chiamato un amico avvocato, mi sono fatta consigliare, lei mi ha detto tu per ora stai ferma non fare altro, e stamattina ascoltando la sua trasmissione ho insomma l'abbiamo solleticata un pochino a eventualmente opporsi ulteriormente. Comandante Scotti, allora, sentito, avete sanzionato Mara per un divieto di sosta in un punto in cui lei ritiene invece che non avesse ragione di esserci questo divieto, sostanzialmente, non lo so. Dove partiamo? Dunque, no, partiamo innanzitutto da questo. Io prendo sempre in considerazione l'idea che sbagliamo, perché come polizia locale di Monza facciamo circa 70.000 sanzioni l'anno. Se non dovessimo sbagliare mai, io sarei preoccupatissimo. È chiaro che sbagliamo, dobbiamo anche avere il coraggio di ammettere quando sarebbe sbagliamo. Sarebbe già ministro dell'interno, comandante Scotti. Come? Sarebbe già ministro dell'interno lei. Insomma, no, se guarda, io dico sempre che tutte le volte che sbagliamo dobbiamo prendere buona nota e poi mandare ovviamente la risposta agli agenti dicendo attenzione, non commettete più questo errore. Secondo, per quanto riguarda poi, a me pare di aver capito che la signora ha già ricevuto una nostra risposta, esatto, dove riteniamo dal nostro punto di vista che l'atto sia corretto, poi non è detto che la signora in seconda battuta di fronte al giudice di pace oppure di fronte al prefetto non abbia invece viste e riconosciute le sue ragioni. E infatti volevo capire adesso con i tempi come funziona. Maurizio Caprino, ammettendo che Mara voglia andare a fare ricorso al giudice di pace, il primo verbale lo ha ricevuto in novembre, può sicuramente andare oppure è scaduto il tempo? No, allora intanto fa fede la data del ricorso quanto a capire se deve pagare o meno questo contributo unificato. Poi non ho capito bene se Mara intendesse come data di novembre la data del primo verbale, e poi credo che i vigili le abbiano risposto il 30-12. Però c'è un passaggio intermedio, nel senso che siccome questo è un divieto di sosta, probabilmente non gli sarà stato notificato all'istante. Ce l'abbiamo ancora in linea, Mara? Sì, sono qua. Quando l'ha ricevuto il verbale? Allora, io ho il verbale il 7 di novembre. Poi ho la data della risposta, reca la data del 30-12, però qui sopra, appena sopra la data, c'è scritto risposta a nota n.sn/n del 27-11-09, cioè tutte le date comunque sono antecedenti alla fine dell'anno, insomma, diciamo così. Sì, ecco, però allora se il verbale è stato consegnato materialmente, qui parlo di verbale, non di preavviso. Il primo, il 7-11, ecco, il verbale con la sanzione praticamente per il parcheggio in divieto di sosta. Esatto, il verbale, quello bello firmato dal vigile, quello formale, insomma. 7-11, se è stato notificato il 7-11, direi che non siamo più nei termini, perché ci sono soltanto 60 giorni per poter fare un ricorso, che sia ricorso al giudice di pace o sia ricorso al prefetto, sempre 60 giorni sono e decorrono dal momento in cui il trasgressore o il proprietario del veicolo ricevono in mano il verbale. E attenzione, qui è un divieto di sosta, quindi non confondiamo il preavviso che si trova sotto al parabrezza con l'eventuale verbale che viene poi recapitato a casa. Sono un po' stupita di questo avvocato che non sapesse dei 60 giorni di tempo entro i quali c'è la possibilità di ricorrere. Mara, magari non vorrei fare tutta la puntata su Mara, però No, e per la verità è un'amica alla quale ho chiesto consiglio, certo, poi quando ho ricevuto la risposta negativa, quindi non le aveva spiegato tutte le date eccetera. Ascolti, magari ci scrive in maniera un po' più dettagliata e cerchiamo di esaminare un po' meglio questo caso e lo giriamo magari direttamente proprio alla comandante Scotti, detto che però insomma quello che dovevano fare i vigili l'hanno fatto. Si tratta di capire se Mara ha il diritto di andare avanti con questa sua contestazione. Orlando da Ferrara, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Cosa le è successo? Mi racconto la mia disavventura per un cartellone. Sì. Nell'anno 2009, il 14 marzo, il Corpo della Polizia Municipale di Ferrara mi fa un verbale di contestazione per aver violato la norma dell'articolo 23 del codice della strada. Di euro 389. Quale beneficiario del messaggio pubblicitario su un cartellone di 3 metri per 1,15 m, vabbè, con un messaggio grafico, sito in, io vivo a Ferrara, sito in una via di Ferrara, no? All'interno di un'area parcheggio, sì, dove è situato un mercatino, negozio dell'usato, ma ad oggi è ancora esistente, sì, di cui beneficia il proprietario. Quindi è un'altra sanzione amministrativa, nulla c'entrano le auto in questo caso, Orlando? No, però diciamo, ecco, ma la chiamo proprio perché io ho fatto, mai avuto quel negozio, mai fatto richiesta di quel cartellone pubblicitario, vengo a conoscenza di questo verbale nel mese di giugno. Bene, mi reco lì al Corpo della Polizia Municipale per fare... guardi che non sono io. Allora devi fare ricorso al giudice di pace o al prefetto. Insomma, io l'ho fatto al prefetto, ho contestato lì, si può fare anche in carta semplice. In poche parole, faccio questo ricorso al prefetto, passa alcuni mesi, qualche mese, così E mi reco lì all'ufficio della prefettura, no? Per avere informazioni, certo, per il ricorso presentato. Il prefetto, tra l'altro, può decidere in 120 giorni dopo aver ricevuto gli atti. Quindi praticamente lei ha presentato tutto in giugno, teoricamente aveva 4 mesi di tempo il prefetto per decidere, però... E allora ho presentato, vengo a conoscenza del ricorso che è stato respinto, per cui la multa si raddoppiava. Allora, un caso di omonimia, quindi Orlando non era lei. Lei ha potuto dimostrare che praticamente il cartellone fosse di qualcun altro, ma pure lì anche dover stare a dimostrare una cosa. Maurizio Caprino, non parliamo di auto qua, che è il terreno che tu ovviamente, come dire, no, gestisci, ma è una cosa molto connessa, perché questa è una violazione del codice della strada che vieta anche la pubblicità abusiva lungo le strade, proprio per farci stare più sicuri mentre siamo alla guida, quindi è tutto assolutamente connesso ed è proprio per questo la sanzione è piuttosto pesante, come ci diceva il nostro ascoltatore. Dunque, se c'è un caso di omonimia e la prefettura non ha voluto o potuto tenerne conto, resta la possibilità di ricorrere al giudice di pace, nel senso che il giudice di pace non funziona solo come alternativa alla prefettura, ma funziona anche come appello nei confronti di ciò che decide la prefettura, quindi è tutto assolutamente in gioco, dipende ovviamente dalla data in cui viene notificata la sentenza, la decisione, in questo caso sarà un'ingiunzione, un'ordinanza ingiunzione da parte della prefettura, quindi dopo 60 giorni si può, entro 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza si può far ricorso al giudice di pace e continuare e cominciare da capo. No, e in questo caso, per esempio, Maurizio, allora qui stiamo affrontando un caso del maggio dello scorso anno, però i tempi per il ricorso alla prefettura sono molto lunghi. In questo caso, ammettendo che il nostro ascoltatore voglia fare l'appello al giudice di pace e lo faccia in questo periodo, in questo caso però facciamo rientrare in gioco la questione del contributo unificato o no? Per l'appello non vale? È solo valido per il primo ricorso? Sempre. Fa fede sempre la data del ricorso a prescindere dal grado in cui ci si trova. Quindi in sostanza Orlando dovrebbe... No, perché allora il prefetto ha 120 giorni di tempo per decidere dopo che ha ricevuto gli atti. L'ordinanza con la sua decisione dovrà essere notificata, leggo testualmente dal Sole, entro 150 giorni a chi ha presentato il ricorso, quindi c'è ancora tempo affinché riceva qualcosa dalla prefettura, il nostro Orlando. Esattamente, ma credo che abbia già ricevuto, perché lui ha già saputo, ha detto di aver saputo, che quindi ha già sicuramente in mano una carta della prefettura che lo informa di tutto, diciamo, del respingimento, e solo con questa carta in mano ovviamente può fare ricorso al giudice di pace, perché altrimenti se per un caso, voglio dire, se per un errore per esempio dell'impiegato della prefettura che gli ha detto a voce che il ricorso è stato respinto e invece è stato accolto, allora chiaramente lui non può, sulla base della parola dell'impiegato della prefettura, andare a fare opposizione al giudice di pace, insomma. No, tra l'altro, sia che venga respinto sia che venga accolto il ricorso dal prefetto, la prefettura comunica in ogni caso, Maurizio? Deve comunicare, perché altrimenti è tutto nullo, certo. Così come deve obbligatoriamente raddoppiare la sanzione. Il prefetto su questo non ha margini di discrezionalità, deve per forza, una volta che ha deciso di respingere, si raddoppia d'ufficio. Però insomma, Orlando, naturalmente se lei si trova a dover un'imposizione di questo tipo e c'è un palese errore di persona, è chiaro che ha tutto il diritto di andare avanti e di ottenere anche la ragione del suo caso. Allora, io ho un minuto e mezzo di tempo, non riesco ad ascoltare Enrico da Teramo, che è un legale, voleva esprimere la sua posizione sul contributo unificato. Enrico, magari ci ritorniamo, la faccio intervenire un'altra volta. Comandante Scotti, vuole aiutarci lei a concludere, magari ritornando se vuole sul caso della sua concittadina di Mara? Le mie comunque indicazioni sono sempre che da un certo punto di vista il cittadino deve far valere i suoi diritti, perché noi qualche volta sbagliamo. Certo. Dall'altra parte ci deve essere anche un atteggiamento nostro volto a riconoscere l'errore e magari in questo poter anche avere un effetto deflattivo nei confronti dei ricorsi. Benissimo. Allora, io prima di salutare sia Maurizio Caprino che il comandante Scotti, devo ricordare una cosa ai nostri ascoltatori, che il Sole 24 Ore ha organizzato questa iniziativa, si chiama Archivio 2009, un anno di articoli di norme, finanze e domenica raccolti in 3 CD-ROM. Già ieri era in edicola il cofanetto Domenica con tutti gli articoli sul mondo dell'arte, della musica che vengono pubblicati appunto ogni sul domenicale del Sole 24 Ore. Oggi è la volta del Cofanepto, norme e tributi. L'esperto risponde con tutte le ultime normative, decreti leggi, le novità in tema di fisco, tributi e quant'altro. Forse c'è anche il contributo unificato. E domani invece c'è il Cofanetto Plus 24, finanza e mercati. Ovviamente sono allegati a parte al Sole 24 Ore, quindi vanno pagati, non sono degli omaggi, questo appunto per chiarezza, per farvi anche una comunicazione corretta. Salvadanaio termina qui. Caprino, Maurizio, ciao, a presto, buona giornata. Grazie anche a lei, comandante Scotti, buona giornata. A risentirci. Salvadanaio torna domani e buona giornata a tutti.